Storie italiane. I viaggi di Gulliver. Lemuel Gulliver nacque nel Nottinghamshire, in Inghilterra. I suoi genitori erano di umili origini, erano molto felici di averlo. I genitori di Gulliver volevano che diventasse un chirurgo. Tuttavia, Gulliver spesso sognava di viaggiare e di esplorare i mari. Oh, come vorrei viaggiare attraverso mari e scoprire terre che nessuno ha mai visto prima. In mancanza di una guida adeguata per il viaggio, Gulliver seguì il consiglio dei suoi genitori e divenne un chirurgo. Era uno dei migliori medici d'Inghilterra. Si prendeva cura dei suoi pazienti e li trattava bene. Eppure, il cuore e l'anima di Gulliver sognavano sempre il mare. Spesso si chiedeva se sarebbe mai stato in grado di navigare sulle acque scintillanti. Passarono gli anni. Gulliver ormai era sposato e aveva due figli. Era un padre adorabile e un marito amorevole, ma desiderava ardentemente vivere il suo sogno. Mio caro, qual è il problema? Ti vedo triste. Mi è stato offerto il lavoro di un capitano su una nave. Voglio accettarlo, ma mi preoccupo per te e per i bambini. Devi sempre seguire il tuo cuore. Se navigare ti rende felice, allora devi accettare il lavoro, ma promettimi che tornerai sempre sano e salvo da noi. Ah, grazie, cara. Gulliver salutò la sua famiglia e partì per navigare nei mari del sud. Si sentiva l'uomo più felice del mondo, ma era completamente all'oscuro delle sfide che lo aspettavano. Quella notte ci fu una tempesta. Le acque si agitarono con rabbia e le onde si infransero ai lati della nave. In pochissimo tempo la nave naufragò, completamente affondò. Gulliver nuotò il più a lungo possibile per non annegare. Mentre pensava che quella potesse essere la sua fine, un'enorme onda lo spinse ancora più in profondità nel mare. Fortunatamente non fu la fine per Gulliver. Fu portato sulle rive di un'isola. Era in un sonno profondo. Mentre apriva gli occhi, sentì qualcosa sulla sua schiena, ma era troppo stanco per svegliarsi. Passò un po' di tempo e Gulliver finalmente si svegliò. Ah, sono così stanco. Che cosa? Perché sono legato nella sabbia? Oh, i miei capelli! Mentre guardava in basso, rimase scioccato nel vedere un ometto, grosso quanto il più piccolo dito di Gulliver, camminare verso la sua faccia. Gulliver era confuso. Sono morto? Perché le persone in paradiso sono così piccole? Gigante, che cosa stai facendo nella nostra isola dei Lillipuziani? Sei qui per mangiarci? Cosa? No! Sei qui per rovinare la nostra isola? Quale isola? L'isola dei Lillipuziani. Aspetta, te l'ho già detto. Ti ha mandato Blefuscu? Che cos'è, Ku? Gigante, dimmi le tue intenzioni. Mi chiamo Lemuel Gulliver, non gigante. E sono stanco. Non so come sono arrivato qui. Ricordo solo che ero sul relitto di una nave nel mare del sud e poi sono annegato. Il soldato capì che Gulliver non stava mentendo. Porteremo il gigante Gulliver in città e lasceremo che il re decida la sua sorte. Vennero portati dei cavalli per trascinare l'enorme carrozza costruita dai Lillipuziani. Per spostare Gulliver, Gulliver venne portato in giro per la città. Ancora non credeva ai suoi occhi. È sicuramente l'isola dei Lillipuziani. E loro mi guardano come se fossi diverso. Strano. Se qualcun altro è diverso da te, allora sicuramente tu sei diverso per qualcun altro. Percezioni. Altezza, quest'uomo dice che non intende farci del male. Infatti, dice che la sua nave è stata distrutta dalle possenti acque e che ora non sa dove si trova. Non possiamo assolutamente fidarci. Lui è una minaccia per noi. Che cosa succederebbe se Blefuscu lo ha mandato per mangiarci tutti? Altezza, non conosce Blefuscu. Lo chiama Ecu. Dimmi, Re Dressel, pensi che dovremmo fidarci di lui? Sembra spaventato e confuso, Vostra Altezza. Lui è nostro ospite, dopotutto. Dobbiamo dargli l'opportunità di mettersi alla prova. Il re si diresse verso Gulliver. Il re era cauto con questo enorme uomo dall'enorme faccia. Deve essere il re. Devo essere gentile con lui. I miei più cordiali saluti dall'Inghilterra, Vostra Altezza. Mi chiamo Lemuel Gulliver. Ho visitato molte terre lontane, Vostra Altezza, ma certamente il suo regno è l'isola più bella sulla quale abbia mai messo piede. È l'isola dei Lilliputziani. Forse siamo piccoli per te, Lemuel Gulliver, ma siamo tutti potenti guerrieri. Sì! Certo, non ne dubito, Vostra Altezza. Anche i potenti guerrieri hanno grandi cuori. Spero che questo regno di grandi cuori mi dia la possibilità di dimostrare la mia lealtà a quelli che mi hanno accolto come loro ospite. La città sta guardando. Non devo prendere decisioni affrettate. È nostro ospite e quindi sarà trattato con rispetto. Ma per la sicurezza di Lilliput, le catene limiteranno i movimenti di Lemuel Gulliver fino a quando non impareremo di più sulla sua strana terra da cui proviene. La folla applaudiva per la decisione del re e Gulliver era sollevato. Gulliver fu costretto a rimanere in un tempio diroccato non lontano dalla città. Era l'unica struttura abbastanza grande per lui. Aveva una catena attaccata al piede destro per limitare i suoi movimenti. I Lillipuziani si prendevano cura del loro ospite gigante. Ogni giorno una processione di persone portava carri pieni di cibo. Gli regalarono nuovi vestiti fatti cucendo insieme molti tessuti. I Lillipuziani si riunivano ogni giorno in gruppi per parlare con il loro gigante ospite. Gulliver gli raccontò storie interessanti e li fece ridere. Li prese uno per uno nei palmi delle mani e gli fece vedere la città come non l'avevano mai vista. Una volta ci fu un evento in città. I Lillipuziani dovevano camminare uno dopo l'altro su una corda tesa e sospesa in aria. Sembravano spaventati. Gulliver era confuso. Così chiese al re cosa stesse succedendo. Noi Lillipuziani siamo coraggiosi e impavidi. Quello che vedi di fronte a te, o potente Lemuel Gulliver, è una prova di coraggio e di lealtà. Colui che supera questa prova sarà nominato capo della difesa. Ma, Vostra Altezza, sembra pericoloso. La corda è appesa in alto. Cosa succede se cadono? Possono ferirsi o perdere la vita. Dimostrare la loro lealtà è più importante delle loro vite? Ma i Lillipuziani sono coraggiosi e orgogliosi e non abbiamo altro modo di mettere alla prova il loro coraggio. Gulliver ci pensò un momento e poi chiese a Re Dressel di portargli una corda. Re Dressel fu felice di aiutare. Anche a lui non piaceva questo sport. Gulliver quindi tagliò la corda in molti pezzi e ne fece una rete di sicurezza. Mise poi la rete sotto la corda sospesa in aria. Ecco, meglio. Ora i Lillipuziani possono partecipare a questo sport senza rischiare la vita. E il regno otterrà il suo capo dalla difesa. La folla esultò per l'innovazione di Gulliver. Come ricompensa, il re tolse le catene dai piedi di Gulliver. Gulliver era libero di vagare per l'isola. Era molto felice. Col passare del tempo, Gulliver guadagnò la fiducia dei Lillipuziani. Il re ora discuteva le sue questioni principesche con lui. Gulliver aveva anche imparato a conoscere l'isola di Blefuscu. Lilliput e Blefuscu erano nemici da molti anni. Gulliver ascoltò tutte le storie con grande interesse. Un giorno a Gulliver fu chiesto di recarsi immediatamente a palazzo. Gulliver, devi aiutarci. Blefuscu ci sta attaccando proprio ora. Gulliver si precipitò sulla riva. Vide che una flotta di navi stava andando verso Lilliput. Le navi erano armate. Sembrava un'invasione. Si diresse verso le navi con una corda. I blefuscudiani furono scioccati nel vedere Gulliver. Cos'è quello? Come mai è così grande? All'attacco! Ah, smettetela! Non funziona! Ritirata! Ritirata! Gulliver legò tutte le navi con le corde e le tirò su una spalla come una sacca da fucile. Trascinò le navi sulla riva lillipuziana. La folla ancora una volta esultava per Gulliver. Aveva salvato delle vite. Molto bene, Lemuel Gulliver. Ma perché ti fermi? Porta qui tutte le navi di Blefuscu, in modo che non abbiano più l'esercito per fare la guerra con noi in futuro. Perdonatemi, Altezza, ma non è giusto. Blefuscu potrebbe aver bisogno dell'esercito per proteggersi dagli altri nemici. Ho portato tutte le navi che erano impegnate nella guerra. Altre navi si trovano sulla riva di Blefuscudian. Non posso trascinarle qui. Il re era infastidito dal fatto che Gulliver non avesse obbedito al suo comando. Trascorsero alcuni giorni e Re Dressel andò a cercare Gulliver. Gulliver, ascoltami. Ciao, Re Dressel. Perché stai sussurrando? Nessuno deve sapere che sono stato qui. Sono venuto per darti un messaggio molto importante. Ho sentito il re mentre parlava di te al consiglio. Non sono contenti di te. Ma perché? Perché hai disobbedito agli ordini del re prendendo tutte le navi a Blefuscu. Ascolta, Gulliver, devi andartene immediatamente da Lilliput. Quest'isola non è più sicura per te. Ma dove andrò? Blefuscu, forse? Ho sentito il comandante di una delle navi catturate. Ha detto che scriverà al re di Blefuscu, lodando la tua popolarità. Puoi chiedere loro di costruirti una barca per il tuo ritorno sicuro. Sono ancora nostri nemici, ma tu sei il mio amico e io sono preoccupato per te. Grazie, Re Dressel. Devo partire immediatamente, allora. Mi ricorderò sempre di te, mio piccolo amico. Che io mi ricorderò di te, gentile gigante Gulliver. Gulliver partì immediatamente per Blefuscu. Camminò nelle acque profonde fino alla pancia e raggiunse le rive di Blefuscu. Vide che il re era in piedi sulla riva con tutto il suo esercito. Devono avermi visto arrivare. Perché non mi hanno attaccato? Altezza, non sono qui per combattere. Sono Lemuel Gulliver e sono venuto qui per chiedere il suo aiuto. Certo, hai salvato le nostre navi e i nostri uomini. Devo ringraziarti, Gulliver. Spero di poterti chiamare così. Al vostro servizio, Vostra Altezza. Organizzate la permanenza di Gulliver. Il giorno seguente, Gulliver era in piedi sulle rive di Blefuscu. All'improvviso vide qualcosa fluttuare nell'acqua. È una barca! Si affrettò dal re. Il re ordinò immediatamente al suo comandante di inviare almeno una dozzina di navi e trascinare la barca galleggiante verso la riva. Poi chiese ai suoi uomini di aiutare Gulliver a ricostruire la barca e gli promise di dare tutto l'aiuto di cui avrebbe avuto bisogno. Gulliver era felice. Ora poteva tornare a casa e rivedere la sua famiglia. Ci volle una settimana per ricostruire la barca. La barca era forte e abbastanza grande per Gulliver. Per ordine del re, i blefuscudiani riempirono la barca di acqua, frutta e bestiame per il viaggio. Non dimenticherò mai la vostra umiltà, Vostra Altezza. Sei un uomo potente e giovane, Gulliver. Non ti dimenticheremo mai neanche noi. Buon viaggio, amico mio. Gulliver salutò i blefuscudiani. Aveva molte belle storie per i suoi figli. Quando Gulliver arrivò a casa, abbracciò forte sua moglie e i bambini. Gulliver raggiunse il Nottinghamshire il 24 aprile 1702.